Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune informazioni di servizio saranno anche noiose, ma vanno date. Allora, la prima è riguarda il nostro sito radio24.it. Potrete scaricare anche via podcast e abbonamento, anche se volete, tutte le puntate di tutte le trasmissioni. Quindi non soltanto la mia, che va in onda la mattina presto, quindi potete ascoltarla con calma quando volete, ma tutto l'altro ciclo produttivo, diciamo così, di Radio 24, l'intero palinsesto. Lì trovate anche il mio blog sul sito di Radio 24, sotto il mio profilo, lo sapete, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio riguarda invece la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Chi segue da oramai quasi 3 anni questa trasmissione sa che io nel passato spesso, molto spesso, ho avuto ospiti dei colleghi giornalisti dei vari media che sono stati oggetto di minacce serie, soprattutto perché lavorano sul campo, quindi proprio a contatto diretto con i criminali, appunto, che hanno subito minacce di morte, intimidazioni. Li ho seguiti e continuerò a farlo, perché è giusto creare quella che io chiamo una catena di legalità. Non ho mai affrontato invece il tema di un bravissimo collega del televideo Rai che si chiama Nello Rega, che si trova sotto minacce serissime ormai da più di un anno per aver scritto un libro che si chiama Diversi e Divisi, in cui racconta il diario di una convivenza con l'Islam. Un libro che io vi invito a conoscere attraverso il sito diversiedivisi.it. Nel passato Radio 24 aveva già ascoltato e sentito la testimonianza di Nello Rega nella trasmissione della collega Raffaella Calandra in Storiacce. Ma e allora perché, voi direte, torni ad occupartene? Per due motivi. Primo, perché ho detto che la catena di legalità non si deve interrompere, quindi continuerò a farlo con tutti. Secondo, perché mentre noi tranquillamente ce ne stiamo nelle nostre casette, il collega Nello Rega il 7 aprile del 2010, quindi pochissimi giorni fa, per l'ennesima volta ha avuto ancora una busta con dei proiettili sul zebbino di casa. Lui è potentino, lavora a Roma, ma è un giornalista di grandissimo profilo, che nel passato ha fatto moltissime inchieste e che è anche impegnato nel sociale. Inchieste che lo hanno portato ovviamente dove? Lo hanno portato all'estero a seguire molto spesso il lavoro fuori dall'Italia, nei territori palestinesi, in Libano, in Kosovo, in Grecia, in Albania, in Jugoslavia. Ha avuto modo di avere a che fare, e quindi con esperienze diverse, quindi anche con le esperienze islamiche, quindi scriverne. Ed ora si trova a fare i conti da solo con queste minacce, ma solo non è, ed è per questo che io ho voluto chiamarlo nella mia trasmissione. Buongiorno Nello. Buongiorno a te, ti ringrazio delle parole che hai usato per me, non so se ne merito, ed è un grande piacere poter parlare di questo, perché è un momento in cui mi sento davvero solo. Benissimo. Allora, visto che solo non sei sicuramente con Radio 24, io ripeto il sito diversiedivisi.it. Allora, io direi, parliamo un attimo delle minacce, parliamo un attimo, ovviamente un attimo soltanto un modo di dire, della desolazione in cui istituzioni e quanti si riempiono la bocca di belle parole ti hanno lasciato, per poi andare all'essenza del tuo libro, che non è una storia di odio, signori miei, ma è una storia di amore, un punto di partenza per capire chi ha esperienze diverse dalle nostre. Prego Nello. Beh, le minacce ormai le ricevo da diversi mesi, minacce che però sono diventate sempre più pressanti e soprattutto che tolgono anche un po' di lucidità. Certo. Minacce come quelle del 7 aprile, quando uscendo di casa ero tornato a Potenza, quindi nessuno conosceva il fatto che avrei dormito a Potenza e non a Roma, dove vivo abitualmente, minacce che quindi mettono in evidenza che sono seguito, una cosa certo, molto brutta, no? Che ti toglie la libertà, sul caso sul collo, e minacce che non si placano. Ho trovato addirittura una testa d'agnello nella mia auto, che avevo lasciato per mezz'ora in un posto. minacce che comunque mi fanno andare avanti, perché penso di essere nel giusto, perché sto raccontando una storia d'amore, come tu giustamente hai detto, e sto raccontando anche la possibilità di potersi integrare noi, Occidente, con gli islamici. Assolutamente. Ecco, prima di tornare a questa storia d'amore, dopo aver ascoltato il momento della denuncia, vale a dire un giornalista, un collega, una voce dell'informazione che è l'anima della democrazia, signori miei, che parla e scrive liberamente, io vorrei farti una domanda su chi e perché ha deciso di lasciarti solo. Lo Stato non ha dato molte risposte a questo, anche se c'è stato un provvedimento da parte di alcuni comitati provinciali dell'ordine e sicurezza pubblica. E io credo che la verità sia nel fatto economico, purtroppo è brutto dirlo, non ci sono molti soldi a disposizione della sicurezza, è brutto sentirselo dire questo. Assolutamente. Mentre è in corso un'indagine internazionale per mettere ordine, no? In questo quadro di questi dei mandanti e di quelli che invece portano a casa queste lettere minatorie, che mi seguono, eccetera. E c'è un'inchiesta internazionale che spero si risolva nel più breve tempo possibile. Nel frattempo sono isolato, cioè giro da solo molto spesso, altre volte giro in compagnia dei carabinieri. Certo. Continuo a presentare il libro. Ecco, che parliamo allora del tuo libro. Dicevamo una storia di amore. Allora, a chi va giù questa storia di amore e di ricerca di convivenza tra due mondi che sono diversi, ma che di rifa o di raffa, come diciamo noi a Roma, devono convivere? Ma è giusto ed è bello che convivano. Io credo che le diversità siano sempre un grande arricchimento, ma ci sono le note musicali così diverse tra di loro che però si fondono in un brano musicale. Le diversità sono un patrimonio che non dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo sempre aiutare. Le diversità però si scontrano con il mondo musulmano quando a fianco a diversità si aggiunge l'altra parola, che è divisione. Siamo divisi dal mondo musulmano perché ancora oggi il mondo musulmano porta avanti dei concetti che io credo siano quanto aberranti, come la poligamia, come la possibilità di un uomo di sposare una donna dopo aver avuto il primo ciclo mestruale, quindi questo significa pedofilia, così come ancora l'obbligatorietà del velo o l'obbligatorietà in Afghanistan, ma anche a Roma, Milano, Torino, del burka, che credo che sia una infibulazione psicologica. Tutto questo ci rende diversi e divisi dal mondo musulmano. Certamente, ma essere diversi non vuol dire mettere su un piano gerarchico o delle scale, diciamo così, l'uno piuttosto che l'altro, vuol dire semplicemente evidenziare come una cartina di tornasole quali sono le cose che ci uniscono e quali sono le cose che ci differenziano. Differenziarsi sulla pedofilia, beh, mi pare un obbligo, un dovere morale. Differenziarsi sul velo, beh, anche questo mi sembra francamente un obbligo morale secondo quella che è la cultura occidentale. Non si tratta di prevaricare o di mettere, come dire, in fila le cose, ma semplicemente di avere i propri valori, i propri principi, giusto Nello? Io sono un assertore del libero arbitrio e sono un assertore della legge più importante che l'uomo sia stato capace di fare, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti. Certo. Umani. E quindi non significa mettersi su un piano diverso dagli islamici, significa solo bellissima l'integrazione, però facciamola con dei punti in comune. Abbiamo tutti quanti il coraggio di dire no alla possibilità che un uomo possa sposare contemporaneamente fino a 4 donne e che una donna bambina venga data in sposa ad un uomo maggiorenne. Questo significa poter e volersi integrare davvero. Scelta condivisibile che del resto mi accomuna a te in quel che dici e accomuna milioni di italiani. Nello, ma c'è stato, come dire, qualche manifestazione particolarmente vigliacca da parte di qualche gruppo che magari lancia il sasso e poi ritira la mano, di quelli che magari fanno anche una falsa testimonianza di solidarietà? Abbiamo, noi in Italia, quando si parla di Islam, abbiamo sempre un po' paura di essere visti come xenofobi, solo per dire questi concetti di quali parlavamo prima. Certo. E vedo anche una parte politica che usa fare un po' come non è giusto fare, mettere la polvere sotto il tappeto, no? Perché così apparentemente non si vede, però dopo la si ritrova molto accumulata sotto il tappeto. Certamente. E molti diciamo gruppi politici che in questi mesi sono stati abbastanza distanti anche dall'esprimere la solidarietà, che ovviamente non si deve chiedere ma che arriva spontaneamente, arrivano anche a dire vabbè, l'Islam bisogna dirlo. E quindi quasi sentirsi in qualche modo conniventi con un sistema che io reputo criminale, perché toglie ogni diritto fondamentale all'essere umano. Assolutamente. Allora io ringrazio Nello Rega, ricordo il suo sito Diversi e Divisi, che si chiama esattamente come il suo libro, che è una storia di amore nei confronti dell'Islam, di ricerche di integrazioni ma anche di differenze. Continueremo a seguire la sua storia. Grazie in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.